vetrina ci sono i piumini e il cartello avverte che ce n'è di tre tipi di piumini. Ci sono i piumini leggeri, i caldi e i caldissimi. Non sfugge a nessuno che il classificatore è partito con un'idea ed è arrivato con un'altra. La leggerezza non fa parte delle gradazioni della temperatura, non c'è termometro che possa misurarla, come non c'è peraltro bilancia che possa misurare il calore. Il classificatore è partito con un sistema di classificazione, ma non ha potuto proseguirne l'applicazione. Perché? Perché si è accorto che il secondo termine, pesante, e il terzo, pesantissimo, quelli che dovrebbero seguire il leggero, facevano come delle connotazioni, si recavano con sé delle connotazioni negative, diciamo. Ben inteso, connotazioni negative tratte da altri contesti, come per esempio dall'alimentazione, dove un cibo pesante e pesantissimo non è voluto da nessuno, ma ciò è stato sufficiente a fermarlo. Ha cambiato l'universo del discorso ed ha scelto il caldo e il caldissimo, che almeno per l'inverno vanno bene quasi ovunque, non per l'acqua minerale o per la bibita gassata e, a pensarci bene, nemmeno per i reggiseni, a quanto mi consta. C'è una sorta di fobia, insomma, per i valori negativi. Quando una parola adombra appena il rischio di una loro applicazione, chi comunica con il fermo intento di persuadere fa dietro front. Accetta perfino di contraddirsi e di non essere efficace, perché è chiaro che di fronte ad un piumino caldissimo, quello caldo, diventa freddo. Piuttosto cerca di non offrire in nessun modo il destro ad una categoria pericolosa. Eppure dovrebbe sapere che tutte le categorie sono ugualmente pericolose. Sapere che andato aumento la loro positività o la loro negatività deriva dal rapporto in cui sono inserite e non da una loro pretesa natura primaria. Nel 1842 Nikolaj Vasilievich Gogol scrisse Il cappotto. La tragedia del misero impiegato Akakievich, che dopo sacrifici inauditi riesce a farsi un cappotto nuovo che gli viene sottratto dai ladri sulla via del ritorno a casa, la sera stessa in cui i colleghi d'ufficio l'avevano invitato a festeggiare l'evento. Erano tempi in cui l'investimento di valore sulle cose del proprio decoro quotidiano era tale da segnare un destino. Erano tempi in cui il caldo e il caldissimo erano implicazioni del pesante e il cappotto era dunque pesante senza vergogna. Erano tempi che sono durati peraltro fino a poco fa, prima che il superfluo venisse brandito già nelle parole a scherno di tutti coloro che, coperti appena da qualcosa di leggero o di leggerissimo, patiscono il freddo.